America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. The Russians suggested that they might treat American aircraft and coalition aircraft in the air west of the Euphrates as targets. They might lock them on. Beh, devo dire, la tensione tra Mosca e Washington non era mai stata così elevata, soprattutto negli ultimi tempi, perché quando arriviamo, questo lo saprete ormai già dalle notizie che da ieri circolano in televisione, sui giornali, alla radio, dicevo, quando arriviamo alla minaccia, anzi alla dichiarazione precisa da parte del governo russo, che afferma con queste parole una sfida contro gli Stati Uniti. Ecco, le parole sono: l'abbattimento di un aereo dell'aviazione militare siriana a opera di un caccia americano è da considerarsi un atto di aggressione. Tutti gli aerei e i droni della coalizione internazionale che voleranno ad ovest dell'Eufrate in Siria saranno seguiti e considerati obiettivi dell'aviazione russa. Ecco, beh, uno potrebbe anche prenderla quasi come una dichiarazione di guerra. Attenzione, se passi quella linea che stabilisco io al di là dell'Eufrate, beh, noi ti potremmo abbattere, ci sentiamo in dovere di abbatterti. Ecco, questa è una sfida, direi, non tanto tra grandi leader politici, ma tra due personaggi che guidano il loro paese, che hanno, come dire, la fama entrambi di essere un po' dei bulli. Quale sarà la risposta degli Stati Uniti? Dico la risposta all'atto pratico, perché la risposta politica c'è stata, è stata abbastanza immediata. La Casa Bianca ha detto: i piloti americani operativi in Siria non esiteranno a difendersi contro minacce russe. Ecco, cosa è successo? Qual è il background di questa situazione? Beh, domenica un caccia americano, un F-18 americano, ha abbattuto un aereo dell'aviazione siriana nella provincia di Raqqa. Ecco, secondo l'America, il jet siriano aveva sganciato delle bombe sulle forze democratiche siriane, che sono protette dagli americani. Certo, questo ci riporta a quella che era la situazione non più tardi di alcuni mesi fa, quando Donald Trump era stato appena eletto. Sentiamo. I think I would have a very, very good relationship with Putin, and I think I would have a very, very good relationship with Russia. Ecco, sentite Trump che dice: penso di poter avere un ottimo rapporto con Putin, un buon rapporto con la Russia. Vladimir Putin è stato un leader molto più abile di quanto sia stato Barack Obama. Ecco, credo che forse oggi Donald Trump si pente di questa affermazione, perché un leader come Obama non avrebbe attaccato briga, ovviamente, con... non l'ha fatto, qualcuno dice che ha sbagliato, però poi la realtà è che Obama è sempre stato molto prudente, dicevo, non ha attaccato briga con Vladimir Putin. E la situazione però è cambiata. Perché? Perché ci siamo accorti che c'era un Russiagate in azione, che c'era una collusione tra funzionari americani, importanti funzionari americani molto vicini a Donald Trump, e funzionari russi. Ora, io non dico che questi non fossero in buona fede nel cercare un riavvicinamento con la Russia, però sono successe delle cose, soprattutto sono state violate alcune leggi americane che impedivano rapporti diretti fra questi personaggi importanti sul piano istituzionale negli Stati Uniti e questi agenti russi. Ecco, quando questo quadro di confusione nei rapporti Russia-Stati Uniti ha preso corpo, la situazione è cambiata. E Tillerson, Rex Tillerson, il segretario di Stato, è andato a Mosca e ha detto questo. I expressed the view that the current state of US-Russia relations is at a low point. There is a low level of trust between our two countries. Ecco, l'avete sentito, le relazioni tra USA e Russia sono a un minimo storico, e su Bashar al-Assad aveva detto: il suo regime sta giungendo al termine. Insomma, le due potenze la vedono in modo molto diverso, ma il fatto che dicono la prima di essere pronta a buttare giù un aereo americano se passa l'Eufrate e l'altra a rispondere, a difendersi e dunque a combattere, beh, come dire, non promette molto bene. A contorno di tutto questo c'è l'incontro di oggi tra Petro Poroshenko, il presidente ucraino, e Mike Pence, il vicepresidente. L'Ucraina, come sappiamo, è uno degli elementi di contesa nei rapporti fra Stati Uniti e Russia. Per ora Trump non ha in programma di vederlo, però staremo a vedere, perché certamente un incontro diretto del presidente col presidente dell'Ucraina, beh, manderebbe di nuovo un segnale forte. Ma passiamo a un incontro importante che invece Trump ha avuto ieri alla Casa Bianca, cercando di togliere l'attenzione a queste vicende di politica internazionale barra politica interna. You have some of the most powerful people in tech sitting down at the White House. They have to be there. The real issues are around jobs and obviously immigration for Silicon Valley companies. Ecco, avete sentito l'audio, gli amministratori delegati della Silicon Valley sono andati alla Casa Bianca per un colloquio con Donald Trump. La seconda volta che c'è questo tipo di incontro, la prima volta era venuto a New York quando Donald Trump non era ancora presidente. E chi c'era? Beh, c'era Jeff Bezos, che adesso sta combattendo con Bill Gates per essere l'uomo più ricco del mondo. Bezos di Amazon, naturalmente. Tim Cook di Apple, Jenny Rometty dell'IBM, Satya Nadella della Microsoft e Eric Schmidt, un po' un visionario fra questi uomini della Silicon Valley, di Google Alphabet. C'erano poi varie altre aziende. Non c'era Mark Zuckerberg di Facebook, non c'era Elon Musk della Tesla, l'auto elettrica. Elon Musk era molto vicino a un certo punto a Donald Trump, al punto che faceva parte di un comitato di consiglieri. Poi diede improvvisamente le dimissioni. Perché? Ma perché di fondo c'è una tensione fra Silicon Valley e Donald Trump su vari punti. Per esempio, il problema dell'immigrazione, dei visti, delle restrizioni ai visti dell'immigrazione. Il 50% dipendente della Silicon Valley non è cittadino americano, perché la Silicon Valley deve pescare i cervelli là dove li trova. Poi c'è la questione del rientro dei capitali, della produzione all'estero. Ci sono polemiche perché Trump ha promesso condizioni speciali, poi però non arrivano per le tensioni politiche interne. Infine, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la decisione di Donald Trump di uscire dall'accordo sul clima di Parigi, che ha raffreddato ancora di più questi rapporti. Ora si sta cercando di ricucire, certo il dialogo è sempre importante, c'è anche l'idea di fare business, perché Jared Kushner, che è il genero di Donald Trump, vorrebbe affidare, lavorare con queste aziende per poter rilanciare il tessuto informatico del governo americano, che secondo lui è su livelli pessimi. Ecco, e per dare una cifra, questa ce l'ha data Donald Trump, se si troverà un accordo per migliorare la digitalizzazione del governo americano, si potranno risparmiare in 10 anni fino a 1.000 miliardi di dollari. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma per come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Questa canzone parla proprio dei conflitti in Medio Oriente, visto che il Medio Oriente è sempre al centro di qualunque tensione, polemica e in questo caso minaccia di scontri aerei, di Bruce Springsteen, Devils and Dust. I diavoli e la polvere. I got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils and dust. We're a long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Feel a dirty wind. Devils and dust. I got God on my side, and I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing, can turn your heart black, you can trust. It'll take a God-filled soul, feel it. Devils in dust. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.